24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Insomma, è morto Nelson Mandela. Ieri sera è morto Nelson Mandela. Che devi dire? Che bisogna dire di un personaggio del genere? Io ricordo quando sono stato a Robben Island, alla prigione di Nelson Mandela, stare lì un minuto, due minuti, non di più, dentro la cella dove è stato 27 anni. 27 anni di carcere, poi è uscito, è diventato presidente del Sudafrica e nel discorso di insediamento ha detto: siamo tutti nati per risplendere come fanno i bambini. Ma che devi dire di una persona così? Una persona che a 80 anni è diventato il primo capo di Stato africano a lasciare volontariamente il potere, perché ha detto: a 80 anni un uomo si deve occupare dei nipoti. E insomma, sono le 6:34 minuti, era malato da tempo, si era detto stava morendo. Ieri definitivamente ci ha lasciato Nelson Mandela, insomma uno dei simboli della libertà e della pace che rimarrà per sempre, morto a 95 anni. Vogliamo iniziare così 24 mattino di oggi alle 6:35 minuti, cari ascoltatori. Dai che è venerdì, come dico sempre, dai che è venerdì. E qui, per scendere a cose più terrene, si chiude la 31esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ma che dobbiamo, il confronto, come dire, talmente spiazzante che mi viene da mollar tutto e andarmene. Vabbè, un saluto davvero a Nelson Mandela e siamo qua in Italia invece a parlare di cose un po' più prosaiche. 6:36 minuti, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Apriamo il Parlamento, dai, anche oggi, anche oggi. A un caffè. Salutiamo tutti. Salutiamo Nicole Minetti. Salutiamo Vladimir Luxuria, buongiorno e benvenuta. Eccoci Vladimir. Buongiorno. Salutiamo anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons, eccolo qua. Buongiorno. Con noi. Vladimir, che dobbiamo dire? Insomma, io, ecco, così ho voluto iniziare con questo omaggio, no? Come si fa? Oggi i giornali sono pieni, ovviamente, e qualcosa leggerò nella segna stampa di tanti articoli molto intensi su Nelson Mandela. Tu ne hai un ricordo particolare? Sì, anch'io ho visitato il carcere di Robben Island quando sono stata a Cape Town in Sudafrica e sono rimasta molto emozionata a visitare un luogo dove una persona è stata detenuta per 27 anni per il semplice fatto di avere un colore di pelle diverso e per aver lottato contro l'apartheid. Ti ricordi la cella, queste 2x2, così la 2x3, una cella veramente minuscola, strettissima. Io voglio ricordare anche un altro aspetto di Nelson Mandela che mi tocca un po' più personalmente, che Nelson Mandela, un anno dopo essere stato insignito del premio Nobel della Pace nel 94, decise una cosa secondo me importante. Disse: io sono stato discriminato, noi siamo stati discriminati per il colore della pelle e non voglio che nessuno più in Sudafrica venga discriminato per nessun motivo. E lui nel 94 vuole far inserire nella Costituzione sudafricana il divieto di discriminare anche per orientamento sessuale, per cui il Sudafrica è tutt'oggi l'unica nazione del continente africano dove il matrimonio è consentito a tutti. Mm. In Sudafrica le coppie gay si possono sposare grazie alla volontà di Nelson Mandela. No, ma è motivo chiaro... in più per ricordare con affetto un no, ma è chiaro una che persona così. È la persona proprio simbolo di, come dire, di qualsiasi antidiscriminazione, no? E lo sarà per sempre. Non so se Carlo Rienzi anche lei ha un ricordo, un qualcosa. Ma io ricordo il 68, veramente, che era lontano da noi quella problematica, devo dire, perché non avevamo questo apartheid, non avevamo nemmeno tante persone di colore, ma era comunque un simbolo. E poi quella, una frase, se posso dire, lui diceva: se tu voli basso non puoi servire bene il mondo, non si illumina nulla in questo mondo se ti ritiri, appassisci, cioè... Era questa spinta a volare alto, a pensare a cose come allora poi era la rivoluzione, no? Cambiare completamente il mondo, eliminare tutte le convenzioni familiari, no? Passavamo un periodo fortissimo. No, ma infatti, tra l'altro 27 anni di carcere ha fatto uno, magari l'idea, no, a 27 sono tanti, 27 è una vita intera, 27 anni di carcere, poi quando è uscito è stato eletto presidente e non ha mai usato una parola, dal primo giorno, una parola di rivalsa, di vendetta, di proprio fin dal primo giorno ha detto il Sudafrica finalmente può essere il Sudafrica di tutti, ecco, questo è stato il messaggio, la grande forza del messaggio di Nelson Mandela. Che dire, ovviamente i giornali tutti aprono su questo, nel senso ci sono 2-3 pagine su il ricordo di Nelson Mandela e poi ci sono le 6-7 pagine giusto per gettarci sulle cose italiane del dopo riforma e dopo bocciatura della consulta sulla legge elettorale. Che dire, io continuo a insistere che secondo me gli italiani penseranno di leggere dei giornali scritti in arabo o in cinese, non lo so, perché non frega niente a nessuno, a mio modo di vedere, cioè voglio dire all'italiano medio, non so, Carlo Rienzi frega qualcuno, cioè lì, tutti i tecnicalismi. No, forse non frega niente a nessuno, però fa rabbia, e fa rabbia, adesso non so se la mia posizione è un po' controcorrente, ho fatto un articolo per l'Huffington Post dicendo queste cose, che si pensi che la Corte Costituzionale ha fatto giustizia nel momento in cui non ha fatto altro che tenere in piedi la legislatura fino al 2015, perché sì. Adesso siccome la legge elettorale non la riescono a fare, hanno un pretesto, perché non possono andare a votare in un altro modo. Hanno congelato Napolitano la situazione. Ha vinto, cioè lui non scioglie più il Parlamento, non lo potrà sciogliere mai, finché all'ultimo mese non farà una legge elettorale. Se lo scioglie è finita, non sanno come votare. Sì, un po' il dato di fatto è questo. Adesso la grande domanda che si pongono i giornali è: ma a questo punto, visto che la Corte Costituzionale ha deciso così, è illegittimo tutto? Lo so, però Brunetta insiste, il Movimento 5 Stelle ma ha detto certo, siamo tutti decaduti. La Corte dirà, come dice sempre, che gli effetti della sentenza sono da partire dalla prossima tornata elettorale, ma vengono salvaguardati gli effetti già prodotti. Ma noi siamo in Italia, caro Rienzi, quindi il dibattito per fare delle chiacchiere c'è sempre. So, Vladimir Luxuria è tutto illegittimo. Qualcuno dice addirittura sono illegittime tutte le leggi fatte, quindi anche le tasse. Tasse. Quello magari sarebbe una buona notizia, Vladimir. Non so se vogliamo divertirci, possiamo dire così, ma forse la cosa triste in Italia è questa: abbiamo avuto dei governi che sono nati proprio perché dovevano fare come obiettivo primario, prioritario, la riforma della legge elettorale. È nato il governo Monti che doveva fare questo e poi adesso è nato il governo Letta. E pensare in Italia, dove c'è un Parlamento che dovrebbe fare delle leggi, deve essere la Corte Costituzionale a bocciare delle leggi, oppure come nel caso poi delle cure staminali, addirittura il TAR. È un po' delegittima questo forse il Parlamento, il Parlamento non è capace di mettersi d'accordo sulle regole del gioco, perché purtroppo in Italia ci sono i partiti che vedono la propria convenienza e quindi in base a quello, alle proiezioni di voto per loro stessi, cercano di fare un sistema elettorale per ottenere loro il massimo che vogliono, invece di fare una legge elettorale più a lungo respiro che possa consentire che la gente voti la persona che vorrebbe vedere in Parlamento e che un partito che ottiene più voti abbia più seggi. Sì, che poi il voto, chi lo sa, un tempo le preferenze erano sinonimo in alcune zone, no? di mafia, adesso le preferenze sono belle. Poi c'è il doppio turno, il cancellierato alla tedesca, il doppio turno alla francese, sono tre giorni che secondo me è così, la risolviamo manco, così. Manco il Kama Sutra, No, se a me è da tre giorni che viene in mente questo, più un modo un po' più prosaico del Kama Sutra. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla Vladimir, valentina. Te la ricordi questa? Elettori, il bagno alla turca! Il bagno alla turca! Era un Benigni eccezionale, Rienzio. Come lo facciamo? Lo facciamo alla francese doppio turno con un colpo secco solo? No, vabbè. Carlo Rienzi era così, era il Benigni che insomma, ed era del 95, credo. Bene, il 90. Stavo pensando anche all'apertura che fai sempre del caffè della Binetti. Stavo vendendo a 1,5 euro all'arma generale, poi con la materia prima che diminuisce invece, no? Ma chi se ne frega, lo mettiamo in conto alla regione Puglia, alla regione Sardegna. Perché la Binetti non offre il caffè, offre al massimo un rosolio. Sentite Alfano, no? Questa hanno presentato in una conferenza stampa epocale il nuovo simbolo del nuovo centrodestra. Sentite Alfano. Abbiamo scelto il blu perché è un colore che dà forza, è la forza del mare, è la bellezza del cielo, è il colore dei sogni di Mirò, no, è il colore prego, della serenità. No. È il colore di chi ha la forza di una il grande mare, speranza. Il cielo, Miro. È il colore che alberga nei cuori è così. Di chi ha voglia ancora di combattere. Hai capito, di il blu, il e blu. Io credo che sia davvero il colore. Questo è il blu, il colore blu, Vladimir, il mare, il cielo, Miro. Bellissimo. Secondo me l'ha preso dal cioccolatini perugina. No, non lo so se l'ha preso da lì, non credo che il mare. Cos'è che c'è un'altra? No, abbiamo scelto, che sentite anche questa. Sempre Alfano, eh. Abbiamo scelto per il simbolo del nostro movimento politico una forma geometrica, il quadrato. Il quadrato è una forma che dall'origine, dalla storia, ci rimanda ad un qualche cosa di bellissimo. Ma voi vi rendete conto? I lati sono uguali e gli angoli. Il teorema di Pitagora spiega tutti no. uguali. I lati sono tutti uguali. I lati sono tutti uguali. Perché il triangolo sarebbe stato un po' troppo equivoco, secondo me. E poi perché lui ha una grande, secondo me, riconoscenza nei confronti del quadrato, perché quando lui ha fatto le sue stronzate come ministro degli interni, tutti fatto quadrato. Rienzi, il quadrato ha tutti i lati uguali. Ci rendiamo conto. Perché lui era invece un angolo di un triangolo, insomma, un angolo piccolino. Adesso si sente uguale. Era un angolo acuto. Poi c'era l'angolo, com'era l'angolo, l'altro angolo, boh, non lo so. Vabbè, il quadrato e Miro, andiamo a sentire il traffico, va, perché sennò qua è un disastro. Pare che in Cina le primarie si facciano al poligono di tiro. Sarebbe una bellissima idea farlo anche in Italia. Letta! Sveglia! C'è alcun paesani, c'è 15 chilometri fra me e te, anche se stai a Roma. Porca miseria, ti vuoi svegliare e cambiare le cose veramente, abbassare queste tasse di tasse? vorrei ricordare a quelli che devono tutto a Berlusconi che i veri traditori non sono quelli che tradiscono Berlusconi, ma quelli che tradiscono l'Italia, soprattutto l'Italia. L'Italia viene prima di Berlusconi. Mettetelo nelle vostre teste. Nel bel mezzo della 31ª settimana decisiva abbiamo finalmente la nuova legge elettorale, ossia quella del 1992, proporzionale puro con una preferenza. Allegria! Cia cia cia, colpa della segretaria, cia cia cia, per i rimborsi cota, cia cia cia, per i mutandoni, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Girando per la città come faccio io tutto il giorno, dovreste vedere quanti giovinastri senza arte né parte parcheggiano il Ferrari in prossimità degli Atenei. È una fiumana. Ora il governo di Vichy dichiara guerra ai falsi poveri. Fa la guerra ai furbetti degli Atenei, ma io non vedo l'ora di vederlo alle prese con quelli veri. La disperazione fa miracoli. Tempo qualche anno e la generazione che sta contribuendo a sterminare gli farà il mazzo. Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica. Carlo Rienzi, mi suggerisco l'altro angolo, giustamente era l'ottuso. Proprio, vabbè, c'è chi dice proprio come chi ha scelto il quadrato, non lo so, il quadrato, non ne esco, il quadrato perché ha i lati tutti uguali. Insomma, lezione di terza elementare di Alfano, vabbè. No, qua si ride, si scherza, ma ancora oggi qua vedevo il messaggero, Carlo Rienzi, famiglie, crolla il potere d'acquisto, crollano gli statali, cioè poi dopo ridiamo, sorridiamo anche delle cose, ma questa è la verità. I giornali raccontano le prime 10 pagine la legge elettorale, poi a pagina 11 raccontano che il paese arranca. La cosa che va detto è che è diminuito del 47% il consumo delle famiglie dalla pre-crisi 2007 ad oggi, cioè la metà, ma è diminuito non solo di quantità ma anche di qualità, perché ora ci si rivolge praticamente solo al low cost. Ma c'è una cosa ancora in più da dire, che adesso per esempio, che è un periodo in cui si compra perché i suoi regali e compagnia eccetera, la gente non compra perché non sa quanto deve pagare di tasse, di IMU, per cui ha paura a comprare il panettone perché poi non sa se ci avrà i soldi per pagare l'IMU, perché nessuno lo sa quello che si paga, cioè, non si sa nemmeno che cosa si deve pagare. Noi ne abbiamo dovuto fare un servizio telefonico per dire ai cittadini cosa devono pagare di IMU, perché lo Stato fa un caos, un casino tale. Avvisate tutti i commercialisti che stanno impazzendo. Noi abbiamo uno staff, non c'è problema. Possono chiamare noi anche i commercialisti. Va bene, aiutiamo anche i commercialisti a parte del Codacos. È l'incertezza. È l'incertezza. Sì, no, ma è chiaro, la situazione è questa. Vladimir, che ti devo dire? Come va il libro L'Italia migliore? Ogni tanto lo citiamo, vai in giro per l'Italia, non vieni mai in TV da me. Un giorno ti invitiamo ogni tanto su 7 Gold, ma non vieni mai. Insomma, come mai? Verrò. A Milano. Però comunque va, nonostante la crisi, nonostante il fatto che, come diceva giustamente Carlo Rienzi, la gente in questo clima di incertezza preferisce risparmiare, nonostante questo il mio libro sta vendendo e quindi mi reputo molto fortunato. Ecco, dice bene, almeno una cosa che va. Vabbè, qui dai, ci dobbiamo fermare. L'angolo ottuso, l'angolo acuto, veramente una roba, non ne esco questa cosa dell'angolo. Io mi ricordavo un personaggio del Grande Fratello che lo chiamavano l'ottusangolo. Sì, e come no, forse una delle prime edizioni, l'ottusangolo. Dai, ringrazio Vladimir Luxuria, ringrazio Carlo Rienzi, mi lasciava ancora con Ciocciolosa, insomma, il nostro omaggio piccolo, piccolissimo, a Nelson Mandela, morto ieri sera, grandissimo, Nelson Mandela, 95 anni. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci alle 7:20, cari ascoltatori. Dai che è venerdì, siamo pronti a leggere i giornali e... vi ricordo anche che oggi si chiude la 31esima settimana decisiva per la riforma elettorale, eh? Non pensiate mica che io smetto di contarle, anche perché una riforma elettorale non c'è stata. E poi si chiude anche la 31esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, e quelle rimangono. E quindi sul mio profilo Twitter Alino Milan, se volete seguirmi, lì continuo a contare, continuiamo a contare. Dai, dai che ce la fanno. Schema Allegri inserito. Dai, forza, dai. Allora, oggi parleremo di che cosa? Beh, forse se ce la facciamo, stiamo montando, eccetera, vorrei farvi sentire anche qualcosa del reportage che feci quando andai a Robben Island, prigione di Nelson Mandela per 17 anni. E poi questa alle 8:15. Se ce la facciamo, non prometto nulla, stiamo lavorando per voi. E poi parleremo invece di un altro tema: gli animalisti contro gli scienziati. Sapete che il professor Silvio Garattini, Mario Garattini, denuncia: subisco delle minacce di morte, perché il tema è quello della sperimentazione sugli animali. Vengo minacciato, ci sono manifestazioni nei miei confronti. E allora il professor Garattini dice: forse questo non è un mondo giusto, quello in cui gli scienziati vengono accusati così. Ne parleremo con lui, ne parleremo anche con una responsabile della Lega Internazionale Medici per l'abolizione della vivisezione. Questo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 6 dicembre e i titoli, il Sole 24 Ore apre su Draghi, priorità all'economia reale, mentre l'apertura dedicata a Mandela è per il Corriere della Sera: Mandela eroe della pace coraggiosa e Repubblica, addio Mandela eroe d'Africa. La Stampa invece mette solo una gigantografia di Mandela con la parola addio. La politica è tutti contro tutti, così apre il Fatto Quotidiano. Mentre dalla farsa al caos, così apre il giornale. Vi cito solo questo titolo: legge elettorale, così si cambia, e Libero, che così poi inizio subito a leggere i giornali. Beh, Libero ha un sobrio, sentite, aprite bene le orecchie: via il porcellum, restano i maiali. Questo è il titolo di Libero di prima pagina. Ma voglio partire appunto dai tanti articoli che trovate sulla scomparsa di Nelson Mandela, e in questo caso voglio leggere ciò che Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, racconta di Madiba, pagina 21 del Sole. Il Sudafrica ha perso il suo eroe, questo è il titolo. Ugo Tramballi scrive: oltre alla vita, a un fisico robusto, a un antico legame con la casa reale Tembu, l'unica cosa che mio padre mi ha conferito alla nascita è stato un nome. Rolilala, in Xhosa il suo significato colloquiale potrebbe essere più felicemente reso con attaccabrighe. È questo l'incipit dell'autobiografia di Mandela. Non è molto quello che gli lasciò il padre, figura minore nella vita di Nelson Rolilala Mandela. Lui stesso non sarebbe stato una presenza affidabile per i suoi figli, sacrificati alla lotta di liberazione del Sudafrica. Lui era un simbolo gigantesco ma lontano, intangibile, per tanti anni dietro le sbarre. È evidente che attaccabrighe fu un nome azzeccato, non deve sembrare un insulto per l'uomo che sarà per sempre ricordato come un simbolo di pace e di perdono. Per lui valgono le parole che Albert Einstein dedicò al Mahatma Gandhi: le generazioni che verranno stenteranno a credere che un uomo così abbia camminato in carne e ossa su questa terra. Non si arriva alla tolleranza senza prima conoscere la polvere della mischia. Nelson Mandela le affrontò tutte le mischie, da quelle infantili nel kraal del clan Madiba in Transkei, dove era nato il 18 luglio 1918, ai ring dove boxava da mediocre peso massimo per apprendere l'autodisciplina, alle aule del tribunale di Johannesburg dove incominciò a far l'avvocato, ai locali notturni di quella città che stava diventando metropoli, infine alla lotta politica. Che noi la si inizi o no, disse Mandela, la violenza incomincerà. Se non ne prendiamo il comando ora, presto saremo i ritardatari e i gregari di un movimento che non controlliamo. Il Mandela Nobel per la pace, l'uomo della trattativa con gli Afrikaners, del compromesso col capitalismo bianco, delle prime elezioni libere del 94, non si spiega senza il passaggio dalla lotta armata che fu anche terrorismo, la fase attraverso la quale sono sempre passati i movimenti di liberazione. Eppure, mentre sceglieva la violenza come stato di necessità contro il segregazionismo bianco, Mandela sosteneva anche l'obbligo di creare una società multirazziale, non per un'Africa dei neri, ma per un Sudafrica di tutti. E ricorda ancora Ugo Tramballi, è l'uomo che è rimasto appunto 17 anni in carcere a Robben Island, che è tornato libero nel febbraio 1990, 4 anni dopo giura da presidente del primo Sudafrica multirazziale, ma anche l'uomo che lascia e abbandona il potere per la prima volta in Africa, non per la sopravvenuta morte o per golpe militare, ma per scelta volontaria, dicendo: a 80 anni un uomo deve pensare ai nipoti. Insomma, questo è uno dei profili, una delle biografie, uno dei racconti di Nelson Mandela. Lo trovate sul Sole 24 Ore, la firma di Ugo Tramballi a pagina 21, ma chiaramente ogni giornale ha il suo racconto. Diciamo che stride moltissimo un'altra storia che proviene dall'Africa, che voglio leggere in questo inizio di rassegna stampa, e proviene dalla Repubblica Centrafricana, dove la Francia ha deciso di intervenire militarmente, un intervento deciso da Hollande, un'azione immediata, un intervento non lungo, ha promesso il presidente francese. Perché? Perché c'è un massacro, quello che viene già definito un pregenocidio. E allora Domenico Quirico, inviato della Stampa, racconta quella che è la situazione lì nella Repubblica Centrafricana, la nuova guerra di Hollande, prima pagina della Stampa. Scrive Quirico: Bokassa, imperatore del Centrafrica, faceva iniziare la visita a questa terra ricca di violatori di diritti umani più che di iene, non dal palazzo dell'assemblea o da un'università. Bokassa portava gli ospiti nell'istituzione principale, la prigione, Angaragla. L'avevano costruita i francesi, ma era piccolo, con una sola camera della morte. L'imperatore amava i francesi, aveva combattuto per loro, gli avevano concesso il potere, ma non avevano capito niente degli africani. Questo lo diceva solo se non c'era qualche consigliere di Parigi a sentirlo e non veniva il suo amico in visita, Giscard, a cacciare elefanti. Quando si elimina un avversario, un ribelle potenziale, qui bisogna annientare anche tutto il suo clan. I neri sono vendicativi, hanno il senso della famiglia, non perdonano. Per questo il capo della prigione ha un ruolo chiave nel paese, più del primo ministro, del capo delle finanze. Lo può scegliere solo il presidente. E torturavano Angaragla. I prigionieri chiedevano in nome di Dio, di Allah, di essere uccisi subito. Quando i prigionieri erano troppi, si faceva come gli allevatori di polli del suo villaggio: uccidere, sopprimere, ridurre. Bokassa, un amico dei francesi, ora non c'è più. È morto esula in Francia, il suo castello venduto, le statue in fogge napoleoniche sparite, la carrozza e l'ermellino dell'incoronazione mangiate dai tardi, ma il Centrafrica continua a essere un luogo, un paese morto, già popolato di fantasmi, dove decine di migliaia di esseri umani sono fuggiti e fuggono ogni giorno come da una gomorra, senza mai voltarsi indietro. Bande di assassini armati di Kalashnikov e macete, cristiani e musulmani, attraversano città e villaggi. Morte, morte su tutti i muri, mosche, perfino le finestre e le porte sono state distrutte, portate via. Tutto è iniziato da cosa? Le bande musulmane dei Seleka, ex ribelli del nord che hanno preso il potere, la cui coalizione si è sciolta solo sulla carta, ammazzano tutti, uomini, donne, bambini. I loro avversari, i gruppi di autodifesa cristiani, le milizie anti-Balakas, anti-Macete, ammazzano in genere solo i maschi, anche quelli che hanno 5 o 6 anni. Silenzio, si uccide. Ieri ancora morti e scontri a Bangui, 105 cadaveri scoperti in una moschea. Ecco, in questo contesto la Francia ha deciso di intervenire, soldati francesi in Centrafrica per mettere fine al massacro. L'ONU autorizza questa missione, 1200 militari per chiudere 8 mesi di conflitto tra gli ex ribelli islamici al potere e i miliziani cristiani. storie di due Afriche diverse, certamente, oggi sui giornali. E noi ripartiamo dopo la pubblicità dalle cose più nostrane, la politica italiana e il dibattito molto, molto, molto, ma molto, ma molto interessante sulla riforma elettorale. 24 mattino. Eccoci qua alle 7:34 minuti, nuovamente in diretta per leggere i giornali. Allora, i giornali italiani, a parte la questione Mandela, su cui torneremo poi alle 8:15 quando vi farò ascoltare il reportage di quando andai al carcere di Robben Island qualche anno fa, parlano di che cosa? Di legge elettorale, il dopo la decisione della Consulta. Ieri ha parlato Napolitano, ha detto non si deve tornare al proporzionale, e la sensazione raccontata da tutti i giornali è che è un paese almeno politicamente impazzito, un po' il tutti contro tutti, un po' la questione di qualcuno che anche specula sulla vicenda Parlamento. Il Parlamento a questo punto è illegittimo, il Parlamento deve decadere, il Parlamento è decaduto, in realtà non si capisce bene, ci sono costituzionalisti che la giudicano in un modo e costituzionalisti che la giudicano in un altro. Sta di fatto che il tema è di una noia mortale, quello della riforma elettorale. E io lo dico per il secondo giorno, oggi le prime 10 pagine dei giornali sono dedicate a questo tema. Come se i giornali raccontassero un paese sempre più sfilacciato al mondo reale, almeno i giornali generalisti. Comunque, questo è il menù. Dario Franceschini, ministro per i rapporti col Parlamento, fa un'intervista a pagina 5 del Messaggero, nella quale racconta della proposta di governo per il doppio turno. Due disegni di legge, dice a Carlo Fusi, che lo intervista. Il primo di modifica costituzionale per introdurre il monocameralismo e la riduzione dei parlamentari. Il secondo per introdurre una nuova legge elettorale bipolare maggioritaria a doppio turno di collegio o coalizione, si vedrà. Ecco, questo è l'incipit dell'intervista. E poi c'è il retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 3. Piano per una sola camera forte, un sistema tedesco corretto. La sentenza della Consulta, scrive Verderami, ha prodotto un cratere che rischia di inghiottire il sistema. Perciò il governo ha approntato un cantiere con ingegneri, operai, arnesi utili alla ricostruzione. Manca però l'intesa sul progetto, questo è il problema. Sul progetto sono troppe le varianti per capire se e come si arriverà a un compromesso, sebbene la bozza sia da tutti o quasi condivisa. Modifica del sistema bicamerale, fiducia al governo assegnata a una sola camera, meccanismo di voto che garantisca il bipolarismo. Tuttavia, appena si scende nei dettagli, si comprende la difficoltà del piano. Quale sorte toccherà a Palazzo Madama? Resterà l'aula di un'assemblea elettiva con l'elezione di 200 senatori, come prefigurano a Palazzo Chigi, o diverrà rappresentanza delle autonomie, come chiede Renzi? Questo è il dilemma che pone il Corriere della Sera a pagina 3. Forza, davanti a un cappuccino, affrontate questo dilemma, questo problema, parlatene in tutti i bar, nei posti di lavoro. Che ne sarà del Senato? Sarà aula di assemblea elettiva oppure rappresentanza delle autonomie? Parlatene, discutetene, sicuramente lo farete, lo so. E poi ancora c'è tutto il dibattito. Intanto retroscena di Repubblica di Francesco Bei a pagina 3, con Renzi che dice a questo punto ai suoi, dice io busso per la questione riforme alla porta di tutti, pure a quella di Grillo, pure a quella di Silvio Berlusconi. Ma racconta Repubblica, il governo ha deciso di muoversi avanti tutta sulla legge elettorale. Avete capito? Avanti tutta! Prima che il partito delle urne unifichi le sue forze, trascini il paese al voto anticipato col Mattarellum. A spiegare la svolta è proprio Dario Franceschini, che fa anche questa intervista poi al Messaggero. Il tema principale è: ma il Parlamento è decaduto oppure no? Chiaramente non è decaduto, ma in realtà ci sono costituzionalisti che dicono attenzione. Per esempio il costituzionalista Capotosti, ex presidente della Corte Costituzionale, intervistato dall'Unità, pagina 3, da Andrea Carugati, dice: dopo le motivazioni, il Parlamento rischia di decadere. Se non saranno convalidati prima tutti gli eletti, rischiano di essere illegittimi. E sta dicendo che anche le norme che il Parlamento approverà dopo saranno illegittime. A mio avviso c'è lo stesso rischio, perché provengono da un organo eletto attraverso una procedura illegittima. E dunque assemblee, legge e colle pienamente legittimi, ma dopo la pubblicazione della sentenza i nuovi atti di queste camere non lo saranno più, così capotosti. Ieri il Movimento 5 Stelle ha inscenato questa protesta, tutti illegittimi, e così bolla il manifesto, ecco l'ultimo show del Movimento 5 Stelle. In realtà anche il Messaggero con Diodato Pirone racconta, questa è un'ipotesi di scuola, perché chiaramente la Corte Costituzionale probabilmente nel motivare la decisione della sentenza dirà che non c'è retroattività, ma 150 deputati eletti col premio di maggioranza rischiano di decadere, perché alcuni deputati sono stati eletti appunto, non erano, che ne so, i primi, i secondi della lista, in alcuni collegi si votavano, che ne so, i primi due venivano eletti in lista, poi quello che è entrato, che era terzo in lista, è stato eletto col proporzionale, e siccome il sistema proporzionale è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, questi rischiano di essere considerati illegittimi. State tranquilli, se vi viene il mal di testa è tutto a posto alle 7.40, eh? È normale, nessuno capisce niente di riforma elettorale, probabilmente neanche coloro che la devono fare, forse loro sì. Sta di fatto che è tutto normale, come racconta l'editoriale più sintetico, più efficace, l'editoriale migliore su tutto questo impazzimento della legge elettorale, lo fa Iena sulla Stampa con il suo graffio a pagina 3. Solo la pioggia è più noiosa dell'ennesima discussione sulla legge elettorale. E così è. Eppure i giornali raccontano che cosa? Raccontano tutti i giorni questa cosa. E in tutto questo, mentre le prime 10 pagine dei giornali raccontano di legge elettorale, uno scopre poi a pagina 11 o 12 dei giornali che c'è anche un paese reale. Un terzo degli italiani è a rischio povertà. Questo l'ha stabilito l'Eurostat. Peggiorano le condizioni di 18 milioni di italiani, solo la Grecia è peggio di noi. Leggo questa pagina 8 a pagina sul giornale L'Unità, la firma Laura Matteucci, e con questo voglio introdurre il nostro grandissimo Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Io, buongiorno. Scusa lo sfogo, ma qua insomma legge elettorale sì, no, doppio, però uninominale. Ti ho sentito abbastanza preparato, sì, sull'IMU sei preparato? No, ecco, sull'IMU devo dire subito, professoressa, non ho studiato. Però accidenti, oggi dovevamo parlare delle pertinenze, avevi detto che ti facevi interrogare. Ho capito. Allora, senti, ieri abbiamo distribuito con il Sole 24 Ore un inserto, chi se lo fosse perso, www.ilsole24ore.com, lo può trovare lì, sezione Store 24. Oggi ti diamo, insieme al Sole 24 Ore, c'è una guida al saldo IMU, è venduta a parte, proprio un libretto, se proprio devi cominciare. Puoi fare la mega interrogazione, cioè per il compito in classe quello. Sì, anche per rimediare, perché io adesso comunque un brutto voto te lo metto. Va bene. Quindi così puoi prepararti, essere pronto, non facciamo brutte figure davanti agli ascoltatori. Guarda che ci sono già 2.436 comuni che hanno aumentato le aliquote, quindi bisognerà pagare questa mini IMU sulla prima casa al 16 di gennaio, lo spiega oggi Trovati sul Sole. E quello che dicevi della povertà, sì, guarda, c'è un bel lavoro di Davide Colombo che incrocia il bilancio INPS con questi dati sulla povertà. E conferma la perdita del potere d'acquisto. E conferma, cioè, secondo me, ma è un mio giudizio questo, su come i giornali trattano le cose, cioè non dovrebbe essere questo in prima pagina e poi il dibattito sulla politica, riforma elettorale relegato in due pagine che hanno la loro dignità sui giornali, o no? O mi sogno io il contrario di quello che dovrebbe essere? Diciamo che la legge elettorale forse non scalda i nostri cuori così come la mini IMU o il potere d'acquisto di tutti noi, però che dobbiamo fare? Questo è un po' l'agenda dei media, noi, come dire, facciamo il possibile. Noi abbiamo, devo dire, scelto uno sfoglio, come si dice, una successione delle pagine un po' differente, però chiaro. Ammetto che anche da noi la legge elettorale trova un suo giusto spazio. Ma certo, però nella ma come, esatto, il suo giusto, hai detto la parola giusta, il suo giusto spazio, non le paginate e paginate. Comunque, insomma. Ecco, quando hai tempo, poi, visto che si avvicina il weekend, sì, tieniti da parte la prima pagina di Imprese e Territori. Ci sono due articoli, uno di Mariano Maugeri e uno di un'altra collega, di Ilaria Vesentini, mi pare che raccontano di come la burocrazia proprio la burocrazia, quella ottusa, quella inutile, sì, abbia fermato due insediamenti, due investimenti che avrebbero anche portato così un po' di ossigeno su territori di province, quindi potevano essere importanti. Ma non ti dico nient'altro. Proprio, sono storie di ordinaria burocrazia. No, ma qualcosa ho già visto e sono storie di, purtroppo, che si ripetono in Italia, giustamente sul Sole 24 Ore ogni tanto trovano spazio per raccontare come si possono fermare anche dei progetti, no? per la banale ma inestricabile burocrazia italiana. Sì, sembra un'affermazione più di poteri locali, di piccoli poteri locali, piuttosto che una reale attenzione al territorio, quella è sacrosanta, per carità. E questo certamente. Allora Mauro, io ti ringrazio e lunedì, cioè sì, volevo dire ci sentiamo lunedì, peraltro non ci sentiremo neanche lunedì perché io lunedì non ci sono, sono un giorno in ferie, ma ci sarà Anna Migliorati, tu ci sarai, insomma ci siamo capiti, un gran casino, ma insomma quella cosa che voleva dire buon weekend, ecco. Bene anche a te. Grazie Mauro, forse torna il campionato, no, cioè forse si conferma il campionato di calcio anche questa settimana, come ben sai. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua alle 7:47 minuti, vi racconto della protesta che continua ancora per la difesa del Made in Italy, la lotta alla contraffazione. Oggi il Sole 24 Ore fa tutti dei calcoli, l'agroalimentare italiano vale 133 miliardi, il 20% è realizzato all'estero, tutti i calcoli sono fatti da Emanuele Scarci a pagina 7, Made in Italy il 72% degli ingredienti, ieri sono stati portati anche dei maiali, dei maialini fuori Piazza Montecitorio, fuori al Parlamento da parte della Coldiretti per difendere l'italianità. Tra l'altro questo dà una stura a una serie di titoli: coi maiali alla Camera, salvate le stalle italiane, così titola il Corriere della Sera pagina 24, mentre ho già detto che il titolo di Libero, che mette insieme però la questione del Porcellum, è di quei titoli insomma che fanno un po' discutere. Alla Libero, ecco, non proprio sobri: via il Porcellum, restano i maiali. Questo è il titolo. Non voglio sapere a chi si riferiscono, cioè ho il dubbio, ce l'ho, non credo ai maiali che sono stati portati da Coldiretti fuori dal Parlamento, ma forse ad altri tipi di maiali, magari un po' più all'interno, ma insomma questo è il titolo di Libero. Anche il Corriere della Sera fa un dossier sull'italianità: latte lituano, pomodori cinesi, la Babele del Made in Italy, Giuseppe Sarcina, pagina 25, due prosciutti su tre dei nostri supermarket vengono da terre lontane e negli stabilimenti si ammassano 5,7 miliardi di chili di grano ungherese e canadese e dalle etichette non si capisce. Anche se qui bisogna capire quanto sia questa difesa dell'italianità, come sono fatti, le etichette, insomma tutta una spiegazione della difesa e quando le materie prime arrivano da fuori e come informarsi. Io però vorrei andare anche a raccontare nella cronaca quello che è successo a Prato, dove un po' ci si è dimenticati della vicenda e della tragedia dei 7 cinesi morti in fabbrica, perché ieri c'è stato uno sviluppo, a mio modo di vedere, molto inquietante: il blitz sulle false residenze ai cinesi. Sono stati arrestati dei funzionari a Prato, italiani. L'accusa è dare false residenze ai cinesi che venivano a Prato, perché se venivano con una possibilità di avere un visto turistico per 3 mesi. E allora che succede? Gli davano delle false residenze. E qui era l'inizio, è l'inizio, parte tutto da qui poi, delle tragedie che accadono. E allora Luca Boldrini racconta, per esempio, sul Giorno, a pagina 14, Prato, falsa residenza a 1000 euro, stesso indirizzo per 8 cinesi. Era venuto il sospetto a un dirigente del comune di Prato. Dalla sua segnalazione è partita l'indagine che ieri mattina ha scatenato l'inferno sulle carte false che uscivano dall'anagrafe pratese. 300 elementi fra guardie di finanza e polizia municipale con 80 pattuglie hanno effettuato 300 perquisizioni. L'opportunità era pagare dagli 800 ai 1500 euro per avere una residenza nella città del tessile. Per farne cosa? Semplice, è la base per tutto. Un immigrato cinese arrivato in Italia con un visto turistico di 3 mesi può procurarsi la falsa residenza, grazie alla quale può poi chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, aprire una partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio. Peccato che fossero residenze false. Arrestati anche un'impiegata dell'anagrafe che fino a un paio d'anni fa era dipendente del comune di Prato, ma era stata licenziata per assenteismo. Ecco, io quando sono arrivato a questo punto dell'articolo ho scagliato un... è venuto l'istinto di tirare un pugno sulla scrivania. Ma come? Come una dipendente arrestata ieri, accusata di aver dato queste residenze fittizie, era già stata licenziata, leggo l'articolo, per assenteismo? E cosa ci faceva a lavorare ancora al comune di Prato? Perché evidentemente qualcuno l'avrà reintegrata al suo posto. E licenziata per assenteismo, evidentemente reintegrata se era lì e se è stata arrestata ora per l'accusa di avere fatto false residenze. Va bene, insomma, diciamo, andiamo avanti. Due segnalazioni per concludere. La prima, ancora continua l'odissea dei tifosi della Lazio fermati a Varsavia, prima di Legia Varsavia Lazio, sono in cella, sono 22. E tifosi laziali, il ministro polacco dice sono dei banditi e come tali verranno trattati. A pagina 17 del Messaggero, la vicenda esce anche dalle cronache sportive per diventare di cronaca vera e propria. I tifosi della Lazio sono banditi, questa è la dichiarazione del ministro dell'interno polacco. Poco prima il premier Letta a Varsavia aveva ricevuto rassicurazione dal primo ministro Donald Tusk sui tempi della giustizia riguardo a questi 22 laziali ancora in carcere, ma poco dopo queste rassicurazioni il ministro dell'interno invece ha detto sono dei banditi e così verranno trattati, quindi facendo sospettare con delle leggi più severe. E insomma, continua questa vicenda. Vabbè, siamo in conclusione. Al momento più atteso della rassegna stampa, al momento dell'articolo più inutile, scovato sui giornali, siamo a pagina 5 di Libero, dove vince oggi, stravince l'articolo su Dudu. Lo sapevo, ora sarà un proliferare. Il cavaliere corteggia gli animalisti, e questo ve l'avevo già detto io, e lancia la campagna, forza Dudu. Ma Libero si inquieta, cercasi Dudu disperatamente. Su Facebook è partito il tormentone per il barboncino bianco presidenziale, il cagnolino di Francesca Pascala. Che fine ha fatto? Perché non socializza più? Premessa, il piccolo Dudu sta bene, fa sapere Libero, ma Dudu, il profilo Dudu con oltre 600 amici in poche ore è scomparso, è stato bruscamente disattivato, erano già stati soprannominati tutti i fan Dudini e Dudine. E dov'è finito il profilo di Dudu? Ma dai, amici di Libero, ma chi se ne frega? Ma vi rendete conto che la carta costa, sì o no? Giornale Radio. Mattino. Siamo qua alle 8:21 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come avete sentito, è morto ieri Nelson Mandela. Io voglio partire da qui, 95 anni, perché Nelson Mandela ha passato tantissimi anni in carcere, tra i 26 e i 27 anni, molti dei quali li ha spesi a Robben Island, che è l'isola carcere al largo di Città del Capo in Sudafrica. E allora voglio farvi ascoltare una cosa, un reportage che io feci quando andai a Robben Island per ricordare chi è stato Nelson Mandela. Robben Island, la prigione carcere di Mandela. Prisoners are not allowed to sing. Prisoners are not allowed to whistle. I prigionieri non possono cantare, fischiare, trattare male le guardie. In 30 celle di 2 metri per 2, il governo del Partito Nazionale tentò di negare per anni la democrazia e il sogno di un paese libero. Ma proprio in quelle piccole celle, quel sogno è diventato realtà. Robben Island oggi è considerata patrimonio dell'umanità. Il carcere, una grande struttura grigia, è stato lasciato volutamente com'era. Qui si può imparare molto su Mandela e il significato della sua battaglia. anche perché ad accogliermi c'è una persona speciale, qualcuno che Robben Island la conosce davvero. My name is Patrick Matangiana. I was arrested 1967. Patrick Matangiana è colui che ha trascorso più tempo in questo carcere, 20 anni. Matangiana faceva parte del braccio armato dell'African National Congress. When I came here, I was very young, about 18 years old. Quando arrivai qui ero molto giovane, avevo quasi 18 anni. Mi portarono nella sezione B. Non sapevo se avrei scontato tutta la condanna, ma ho trovato una situazione durissima. Patrick Matangiana ha fatto una scelta di vita radicale. Dopo la liberazione ha deciso di continuare a vivere a Robben Island. Oggi è una delle guide che spiega ai turisti la storia del carcere. È come se il suo spirito, dopo 20 anni passati tra queste mura, non riuscisse a trovare una propria dimensione, se non qui. All'interno del carcere di Robben Island incontro Calvin, un 32enne nero. È la mia guida. La prima porta che incontriamo è quella dell'infermeria, una stanza minuscola dove i prigionieri potevano vedere il medico solo una volta a settimana, il lunedì. Poco più avanti c'è uno stanzone di 20 metri per 7. Qui, racconta Calvin, venivano sistemati i criminali comuni, quelli meno temuti. Neri, colored, asiatici, tutti ammassati uno sull'altro come nelle famigerate traversate oceaniche durante la tratta degli schiavi. Appesa alla parete c'è la dieta del prigioniero su cui sono annotate le razioni da distribuire. Anche qui vigeva l'apartheid. Lo zucchero, per esempio, se eri un colored avevi diritto a 60 grammi, se eri nero a 45. Ai neri niente pane, ai colored e agli asiatici 250 grammi al giorno. E così per la carne, secondo un principio banale e terribile, più scura era la pelle, meno contavi. So the darker your skin, the more lower you are. Camminando arriviamo a una pesante porta di ferro. La scritta recita Section B. È la sezione di Nelson Mandela e dei leader politici accusati di terrorismo. Entrando qui, la vita cambiava di colpo. A cominciare dal primo istante, quando le guardie chiudevano violentemente la porta al passaggio del prigioniero. Il primo ufficio sulla destra era il più temuto dai prigionieri. Era l'ufficio della censura. Qui, mi spiega Calvin, veniva pianificata la tortura psicologica. Le guardie creavano false lettere indirizzate ai prigionieri da parte delle loro mogli, con le quali si chiedeva il divorzio, e rispondevano con altrettante lettere inventate, scrivendo di accettare. Decine di famiglie sono state distrutte così. Pochi passi ci separano dalle 30 celle della Section B. This is Nelson Mandela's cell. It is cell number 5. Eccola, la cella di Nelson Mandela, la numero 5. In 2 metri per 2 ci sono una coperta stesa per terra su cui Mandela dormiva, un bidone che fungeva da toilette, una tazza per il cibo, una più piccola per l'acqua. Entro e per un attimo rimango in silenzio cercando di immaginare i pensieri dell'uomo simbolo nella lotta all'apartheid. La piccola grata finestra dà sul cortile dove i prigionieri dovevano lavorare. Calvin mi ci porta. È in questo spazio angusto, 40 metri per 20, delimitato da alte mura, che i padri del Sudafrica democratico progettarono un futuro diverso. Qui vissero a lungo i giganti della battaglia, come li chiama Calvin. Qui Mandela ha scritto la sua autobiografia, Lungo cammino verso la libertà. Mentre Mandela lottava rinchiuso in una cella, fuori prendeva sempre più corpo la ribellione sociale dei neri. Grazie alla mobilitazione guidata da personaggi come l'arcivescovo di Cape Town, Desmond Tutu, ci fu la svolta. Finché people serving prison sentences merely because they were members of one of these organizations will be identified and released. questa sentenza ridiede la libertà a Nelson Mandela. Cape Town, 11 febbraio 1990. Il mondo si fermò per guardare un uomo affaticato camminare verso la libertà. Let us forget the past. Let us now work together to make this country a great country. Dimentichiamo il passato e lavoriamo insieme per fare del Sudafrica un grande paese. Così, nel suo primo discorso pubblico, Mandela parlava alla sua gente, i sudafricani. Nel giro di poco tempo, il carcere di Robben Island fu chiuso. Centinaia di prigionieri liberati riabbracciarono i propri cari. Nel 93 Mandela ricevette il premio Nobel per la pace, nel 94 nelle prime elezioni democratiche fu eletto presidente. Patrick Matangiana ricorda perfettamente quel giorno. Quando ho saputo che l'African National Congress ha vinto le elezioni ero felicissimo. Mi sono detto, sì, ce l'abbiamo fatta. Alla fine abbiamo vinto ed ero contento. Sono andato a casa, ho detto ai miei genitori e alla mia famiglia, ora preghiamo perché abbiamo vinto. È stato il giorno più felice della mia vita. Il miracolo di Mandela, disse una volta l'arcivescovo Tutu, è che esiste ancora chi riesce a perdonare nonostante gli orrori compiuti nei suoi confronti. La dimostrazione di quanto ciò sia vero si chiama Christo Brandt. Lo incontro nel museo di Robben Island dove oggi lavora. Brandt è stato il carceriere di Nelson Mandela. They told us we will meet the biggest criminals in the history of South Africa. Ci dissero che avremmo incontrato i peggiori criminali nella storia del Sudafrica. Mi assegnarono alla sezione B, dove c'era anche Mandela. Quando arrivai, vidi che dormivano per terra, con una sola coperta. Ricordo che faceva molto freddo. Mi salutarono calorosamente, alcuni nella mia lingua, l'Afrikaans. Io non potevo credere che fossero criminali. Mi immaginavo gente con tatuaggi, con facce strane. Invece niente. E chiesi al collega, che razza di criminali sarebbero? E lui, terroristi. Io diventai loro amico. Christo Brandt, l'ex carceriere di Nelson Mandela, oggi ne è uno dei migliori amici. Mandela, con i suoi vecchi compagni, è tornato a Robben Island. Insieme a loro ha cantato, spaccando simbolicamente le pietre, come era stato costretto a fare durante la prigionia. Oggi di Robben Island rimane un'eredità forte. Queste spiagge hanno visto sbarcare nei secoli migliaia di persone segregate. Le mura di questo carcere hanno assistito a scene di disperazione e di ingiustizia. Eppure, per chi da qui ha costruito un paese migliore, Robben Island rappresenta, soprattutto, il trionfo dello spirito umano. È morto dunque ieri a 95 anni Nelson Mandela, ho voluto ricordarlo così, uno che a 80 anni si ritirò volontariamente dalla vita politica, a 80 anni, dicendo un uomo di 80 anni deve occuparsi dei suoi nipoti. Dopo la pubblicità parleremo di altro. 24 mattino. Eccoci alle 8:36. Allora, la scorsa settimana a Milano un gruppo di animalisti al grido di no alla vivisezione e anche con gli slogan chiudiamo tutti i lager ha sfilato appunto per Milano con l'obiettivo di andare a protestare davanti all'istituto Mario Negri, dove c'era un incontro dal titolo Io sto con la ricerca. C'erano diversi centinaia di scienziati che portavano anche solidarietà a un professore, il professor Silvio Garattini, il direttore dell'istituto Mario Negri, che è con noi. Professor Garattini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Il professor Garattini da giorni è criticato duramente, per usare un eufemismo, anche in realtà ha ricevuto minacce di morte, perché critica fortemente una legge italiana che, per la verità, ha recepito una direttiva europea, ma lo ha fatto, secondo il professor Galatini, in modo più stringente. Una legge che è troppo restrittiva e limita moltissimo la sperimentazione sugli animali, che per il professor Galatini è fondamentale, per molti scienziati, anche per fare progressi nella scienza, nella medicina in particolare. E, con lei, professor Galatini, c'è Nicoletta Biasuzzi, che voglio salutare, membro della Lega Internazionale Medici per l'abolizione della vivisezione. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie. Allora, intanto, professor Galatini, partiamo dall'aspetto più personale. Queste minacce di morte l'hanno inquietata oppure lei va avanti per la sua strada? No, non mi sono mai lasciato intimidire. Sono 60 anni che mi occupo di ricerca, quindi non mi sono mai lasciato intimidire. E queste non sono delle novità, sono cose che sono sempre successe durante tutti gli anni, ma il problema non riguarda me, il problema riguarda in generale la ricerca, e la dimostrazione a Milano è stata molto importante perché ha fatto capire che tutti i ricercatori sostanzialmente ritengono che la ricerca serva sugli animali sia assolutamente necessaria, ecco, se vogliamo veramente che la medicina possa progredire. Però le chiedo, professore, ma secondo lei perché si è arrivato a tanto? Cioè, frutto di che cosa queste minacce? Ma intanto è frutto di fanatismo, perché non può essere che fanatismo quello di minacciare. È rifiuto di ogni dialogo e anche molto mancanza di argomentazioni. Quando uno non ha argomenti, insulta, urla, grida, fa i cortei, insomma, non ha... questo è un po' il problema. Le chiedo questo: c'è possibilità di fare medicina, di ricerca scientifica e progredire nella medicina senza la sperimentazione animale, secondo lei? No, direi proprio di no, ma non sono io che lo dico, insomma, è tutta la ricerca internazionale, perché nonostante quello che dicono i nostri oppositori, in tutti i paesi del mondo la ricerca sugli animali è considerata una necessità, tant'è vero che poi è anche regolata per legge, ogni paese civile ha certamente una legge. Lei, soprattutto ieri su Panorama, ha criticato due aspetti di questa legge italiana: non si possono allevare in Italia animali per la sperimentazione, ma lei dice basta allevarli all'estero e portarli in Italia e si aggira così, quindi è una cosa sbagliata, e poi non si possono per esempio fare dei trapianti, così come non si possono sperimentare droghe sugli animali, cosa che lei dice, addirittura ci sono molti uomini e donne che utilizzano le droghe, non si capisce perché sugli animali. Però mi faccia intanto coinvolge Nicoletta Biasuzzi, sì, vorrei chiedere, certo, dottoressa Biasuzzi, intanto anche a lei un giudizio su, prendiamola dal lato personale, cioè che ne pensa delle accuse, anche minacce di morte, nei confronti del professor Galatini? Ma sulle accuse e le minacce di morte posso essere d'accordo col professor Galatini, perché il dialogo, se esiste ed è consentito, non deve sicuramente lasciare spazio alla violenza e non deve lasciare spazio agli insulti, quindi su questo siamo assolutamente d'accordo, credo di poter parlare a nome di tutta l'IMAV. Sì. Sulla sperimentazione animale, io quello che le posso dire, perché ovviamente non sono una ricercatrice, sono un semplice medico di base, certo, e quindi tutti i giorni ha a che fare con i propri pazienti, e siccome io nel mio ambulatorio promuovo la mia posizione, che non è a favore della vivisezione, spiego semplicemente che se io mangiassi croccantini come fa il mio gatto, avessi la coda e le orecchie, sì, sicuramente sarei d'accordo con la vivisezione o comunque con la ricerca sull'animale, però siccome io ho studiato medicina e non mi è consentito fare il veterinario, non capisco come si possa ritenere un test sull'animale un test ideale, visto che l'ideale... Cioè lei contesta la sperimentazione del tipo... La riproducibilità dall'animale all'uomo. Sì, ma la contesto anche perché, vede, al di là della ricerca, che siamo tutti d'accordo che vogliamo la ricerca, io ho un bambino di 16 mesi e voglio che ci sia la ricerca... Che la medicina progredisca, certo. E la medicina, certo, ci mancherebbe, assolutamente. Però lo voglio in maniera etica e sicura, nel senso che, per esempio, è dell'altro ieri, la comunicazione che mi è arrivata sul ranellato di stronzio, non è un insulto, alias Propelos, farmaco per l'osteoporosi, che dopo anni che lo potevo prescrivere tranquillamente, sì, adesso deve essere invece prescritto su piano terapeutico, perché sono, sì, risultati degli importanti però, controindicazioni cardiovascolari. Però mi scusi, dottoressa Biasuzzi, sì, delle due l'una, cioè se lei dice la non è riproducibile la sperimentazione sull'animale, sì, sull'uomo, allora cos'è? Cioè, i ricercatori si divertono a fare sperimentazione oppure, beh, pensano in maniera errata che possa essere riproducibile? Io non do assolutamente giudizi, rimango nella mia posizione, che è quella di dire che non ritengo attendibile la sperimentazione sull'animale, nel senso che sicuramente ci possono essere nei confronti per esempio di alcuni farmaci, si usano sull'animale e si usano sull'uomo, ma questa è una coincidenza. Sì. Poi, siccome quando noi parliamo di salute degli individui non stiamo facendo la roulette russa, io non mi accontento, no, questo sì, delle coincidenze. No, certo, ma lei, cioè, lei proprio personalmente, quindi che spiegazione si dà? Tutti i ricercatori che pensano questo sbagliano, cioè pensano una cosa sbagliata. Io non ho la presunzione. Io, come le dico, mi sono posta questa semplice domanda e mi sono chiesta perché, avendo studiato medicina, non posso fare il veterinario, e perché quando sto male, se trovo chiuso il mio medico, non posso andare dal veterinario. Allora, no, ma è interessante, professor Garattini, qui si mette, diciamo, in discussione, non è una trasmissione scientifica, io sono l'ultima persona al mondo che posso decidere e sapere se le competenze della ricerca scientifica sugli animali, la sperimentazione sugli animali, possa essere efficace come riproducibilità. Lei, immagino, avrà tutta una serie di studi che dicono il contrario di quello che dice la dottoressa Biasuzzi, ma qui si mina alla base la necessità della sperimentazione, Garattini. No, beh, ma diciamo la dottoressa è un po' in contraddizione con se stessa, perché non crede che noi facciamo delle cose utili e poi tutti i giorni prescrive i farmaci e vede magari i risultati nei suoi pazienti. No, diciamo, non crede che l'utilità oggi sia la sperimentazione sugli animali, ecco, perché dice si curano gli uomini, quindi perché provarli sugli animali? E con cosa li curerebbe lei? Questo è il problema, cioè non può non riconoscere che se oggi facciamo i trapianti è perché abbiamo fatto per tanto tempo queste prove negli animali, se oggi abbiamo rimedi contro l'AIDS è perché negli animali abbiamo riprodotto quell'infezione e abbiamo cercato dei farmaci, se oggi curiamo le malattie cardiovascolari è perché abbiamo avuto dei modelli negli animali per studiare questi prodotti e così via. Se oggi curiamo la leucemia dei bambini e li facciamo vivere e la curiamo effettivamente è perché nei topi abbiamo trovato un tipo di leucemia che era particolarmente adatta a studiare questo problema e abbiamo trovato dei farmaci che oggi vengono comunemente utilizzati. Cioè non si può negare la realtà. Ha fatto o non ha fatto la medicina dei progressi? Come l'ha fatta? Lei non dice l'ha certamente fatta perché qualcuno si è sognato. Ma chiaro, lei dice perché la riproducibilità invece è un qualcosa che assolutamente ha delle basi. Io le chiedo questo, professor Garattini, lei ama gli animali? Lei lo dimostra la storia della medicina? Sì, sì, dimostra. No, è chiaro. Non è che me lo invento io. No, ma è chiaro. Mi faccio fare questa domanda personale. Lei, nei confronti degli animali, che rapporto ha? Lei li ama gli animali? È un rapporto buonissimo. Certamente gli animali sono qualcosa che di piacevole, di interessante, riempiono la vita di tante persone. Questo non c'entra assolutamente nulla con il problema però anche di avere dei mezzi per lenire i dolori, le sofferenze di tanta gente. Come possiamo fare a fare progressi se non abbiamo dei modelli su cui lavorare? Ci dovrebbero quelli che noi siamo anche noi convinti che gli animali sono diversi dall'uomo e quindi sono dei modelli, ma qualcuno ci dica che cosa c'è di meglio, che cosa possiamo fare. La sperimentazione animale è come la democrazia, è imperfetta, ma è la migliore cosa che oggi abbiamo a disposizione se vogliamo fare dei progressi. Allora, si fermi qui, ci sono le informazioni sul traffico, ripartiamo tra un attimo. Permettimi di raccontarti la storia di Guido, un uomo capace di cambiare la sua vita per inseguire un sogno, realizzare il miglior gelato artigianale del mondo, che oggi conquista tutti grazie ad ingredienti di assoluta qualità. Forse Guido avrebbe potuto rinunciare al suo sogno, ma qualcosa dentro di lui lo ha spinto a continuare. La sua passione, la sua determinazione, la sua ambizione. Barclays, realizza le tue ambizioni. Scopri di più sulla vita di Guido e altre storie di ambizione su ilmiotraguardo.it. Il più bel regalo di Natale? Scoprire le stazioni di servizio Costantin. Alta qualità, a prezzi bassi. Vi presenta Strade in diretta. Disagi sulla 4 Brescia-Padova, le code hanno raggiunto i 10 km per un incidente con mezzi pesanti avvenuto questa notte tra Brescia Est e Desenzano. Sulla carreggiata verso Padova si circola su una corsia e l'entrata di Brescia Est è chiusa. Sulla carreggiata verso Milano rallentamenti da smaltire per un altro incidente ora risolto tra Padova Ovest e Grisignano. Difficoltà anche sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. In direzione Firenze è stato chiuso il tratto compreso tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato per la rimozione di veicoli incidentati, code di 4 km all'interno del tratto chiuso. Per problemi tecnici è chiuso poi dalle prime ore del mattino il traforo del Frejus ai mezzi pesanti e si formano delle code sulla 32 Torino-Bardonecchia di camion prima del tunnel. Sul resto dei percorsi traffico del mattino, prudenza, ci sono dei banchi di nebbia sull'autosole nella provincia di Frosinone, nevica invece sulla 22 al valico del Brennero. È tutto, Strada in diretta, torna tra un'ora. Promo 24. Fisso, mobile, internet. Dentro Impresa Semplice c'è davvero tutto. Per esempio, per i liberi professionisti che passano a Telecom Italia, Impresa Semplice offre una soluzione completa e senza sorprese in bolletta, con chiamate illimitate e navigazione internet illimitata, sia da fisso che da mobile. Il tutto a 75 euro al mese per 2 anni. E con l'utilizzo della doppia SIM è possibile condividere i gigabyte tra smartphone e tablet. Promozione valida fino al 31 dicembre 2013. Per info, costi e condizioni d'uso lecito e corretto, chiama il 191 o vai su impresasemplice.it. Eccoci qua, 8:49 minuti. Allora, professor Galattini ci dice: la sperimentazione animale è come la democrazia, no? Un sistema imperfetto, ma il migliore che abbiamo trovato per far progredire la ricerca scientifica, per far progredire la scienza. Insieme a Nicoletta Biasuzzi voglio anche un parere su questo, lo vorrei proprio coinvolgere. Walter Caporale, che è presidente dell'Associazione Animalisti Italiani, la Ollus. Caporale, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Eccoci a lei e a tutti gli ascoltatori. Che ne pensa di quest'ultima definizione del professor Galattini, che dice: dateci un'alternativa. Guardi, caporale, le do anche questo spunto. Un ascoltatore, Silvano da Trento, ci dice: di cosa parliamo? Lo sapete che i ricercatori di fisica sperimentale devono mandare i topi in Francia per curare i nostri tumori con costi abnormi? E quindi, sì, ecco. io mi permetto di dire che dei chiari segnali a favore dell'abolizione della sperimentazione sugli animali non ci vengono dagli animalisti italiani, ma ci vengono dall'Europa e dagli Stati Uniti, perché innanzitutto l'Europa ha deciso di stanziare per il settennato 2014-2020 ben 70 miliardi di euro per tutti quei metodi di ricerca scientifici ed etici che non fanno uso di animali. Però, tra questi c'è uno dei più grandi, mi permetta, sì? Però sono quale? Cose importantissime. C'è uno dei più grandi progetti al mondo, Human Brain Project, che produrrà entro 3 anni il primo cervello in microchip. Negli Stati Uniti, il secondo aspetto che ci dice come gli animali si possono evitare per la sperimentazione animale, l'ente per l'approvazione dei farmaci, famosissimo in tutto il mondo, la FDA, ha deciso di stanziare 40 milioni di dollari nelle ricerche del Wyss Institute di Boston, dove medici, biologi, ingegneri hanno messo a punto dei microchip che riproducono il polmone umano, l'intestino umano. Quindi queste sono le alternative. Queste sono le alternative che quando Garattini dice. Dire una cosa, guarda, il fatto di parlare di sperimentazione che si è sempre fatta è un po' sbagliata, perché ci sono cose che si fanno da secoli per abitudine. Lei prima si chiedeva: ma perché si sperimenta sugli animali? Appunto, infatti, perché, le volevo guardi, proprio fare questa domanda, cioè perché non credo che uno abbia il piacere di non... Voi avete fatto un servizio stupendo adesso, prima delle 8:30, sulla morte di un grande uomo, sì, Nelson Mandela, che ha detto: nessuno è nato schiavo né signore né per vivere in miseria, siamo tutti nati per essere fratelli. Avete fatto un servizio bellissimo. Ebbene, ci è voluto un uomo meraviglioso, grande come Nelson Mandela, che nel 1990 è riuscito ad abolire dopo centinaia di anni la segregazione. Allora io la traduco così, caporale, mi scusi. Quindi, la traduco così, mi dica di certo, no? Mi dica se sbaglio, e così vorrei Garattini e poi anche Biasuzzi. Lei dice in pratica che i ricercatori, la ricerca scientifica, il mondo scientifico è cristallizzato ad abitudini che non vuole cambiare. Insomma, Garattini. Esatto, c'è un discorso di abitudine, di perfetto, tradizione, è molto chiaro. Mi permetta anche di dire una cosa. Aspetti, caporale, così facciamo un botta e risposta. Ecco, però mi scusi, siccome si stanno contestando anche le manifestazioni, la democrazia è quella di persone che, come Nelson Mandela, ma anche di. Va bene, però insomma, adesso siamo riusciti a tirare anche Nelson Mandela in una questione così. Lasciamo perdere Nelson. E però Mandela. Garattini risponda al punto, cioè dice: è come se siete cristallizzati a vecchie abitudini. Quello che sta dicendo Caporale è quello che noi facciamo tutti i giorni. Noi partecipiamo a questi progetti. Chi li fa questi progetti? Li fanno i ricercatori. Siamo gli stessi che al tempo stesso, finché non c'è niente di meglio, utilizzano la sperimentazione animale. E nel frattempo cercano di preparare, di sviluppare anche delle tecnologie che siano utili. Ma quando lui mi parla di chip che riproducono il polmone, non sa veramente di che cosa parla, perché i chip non possono riprodurre il polmone proprio per loro natura. Quando dice 70 miliardi per la ricerca, quei 70 miliardi dell'Unione Europea per la ricerca sono per tutta la ricerca, fisica all'economia. Loro non sono informati, quando parlano che in Europa e negli Stati Uniti stanno cambiando, non sta cambiando niente. Quindi sta, lei sta dice cambiando, piano piano tutto sta cambiando. Lei, professor Garattini, che la tecnologia ci dà delle nuove mi sembra di capire, professor Garattini, mi sembra di capire che lei sarebbe il primo, o sbaglio, a poter dire ci fosse un'alternativa. Io sarei il primo a non avere la sperimentazione sugli animali, ma certamente o non ci divertiamo a fare questo spesso. Evidentemente, essendo delle persone, a meno che non pensino che noi siamo dei robot, ci dispiace spesso di fare delle cose, però lo facciamo in vista di qualcosa di più importante. Saremo i primi a essere felici a non dover aver bisogno degli animali, anche perché oltretutto hanno dei costi molto importanti, con le carenze che ci sono oggi nel campo della ricerca, del sostegno. No, ma questo è molto chiaro. Dottoressa Biasuzzi, ha sentito insomma l'ultima posizione di Garattini? Noi abbiamo un minuto. Al dottor Garattini risponderà in termini di ricerca qualcuno sicuramente più perito di me, come può essere il dottor Cagno della RIMAV. Quanto alle contraddizioni, io posso dirle che i farmaci li prescrivo e ai miei pazienti dico che questi farmaci li possono far star bene, però c'è da dire una cosa, è come dire: io in questo momento sono sulla mia auto, l'ho comprata, sono contenta di starci sopra perché so che quando l'hanno sperimentata hanno usato un'auto. Se sapessi che hanno invece usato una bicicletta, perché comunque alle ruote e i freni, sarei meno contenta. Poi siccome devo fare 80 km al giorno per guadagnarmi il pane, comunque dovrei andare nell'auto, certo. Un atto di fede. Insomma, lei contesta questa, la base, contesta proprio la questione della riproducibilità. Tutto ciò che viene utilizzato come sperimentazione sugli animali non può essere applicata sull'uomo per un principio banale: un animale non è un uomo. Guardate, io purtroppo oggi, col fatto appunto della morte di Nelson Mandela, ho voluto mandare questo documentario che avevo fatto, quindi abbiamo sottratto un po' di tempo a questa tematica che poteva essere ben più ampia. Mi prometto, come al solito, noi torniamo sui temi, lo faremo, torneremo su questo tema anche come su altri. Grazie a tutti i miei ospiti. Lunedì io non ci sarò, ci sarà Anna Migliorati, c'è 24 Mattino, appuntamento lunedì alle 6:30. Buon weekend.